Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Uscivamo con una barca che era poco più di un guscio. Siamo stati su un'isola in cui c'era solo una capanna con un cane e non aveva un diametro maggiore di 10 metri. Su una terza, sperduta nell'oceano, c'era solo un bar. Mi chiamo Paolo, abito a Milano, ho 52 anni, lavoro in una multinazionale americana, sono divorziato e ho due figli. Sapete qual è il problema del Capodanno? Che non è l'ultimo dell'anno, il Capodanno, il primo di gennaio, o comunque quella festa lì, quella che sta a cavallo tra il 31 e l'1, quella che avete passato ieri sera, è che alla fine, passati gli anni, a 20 anni uno se li ricorda, ma già a 30, per non parlare poi a 40 o a 50 e a 60 anni, si somigliano un po' tutti. E uno non si ricorda mai che cosa era accaduto quell'anno o quel particolare 31 di dicembre, a meno che non sia accaduto qualcosa di particolare. La storia che raccontiamo oggi parla di quello, parla di un capodanno, parla di un periodo diventato memorabile, anche se non è un capodanno in realtà quello di cui vi raccontiamo, di un periodo diventato memorabile perché è successo qualcosa. Ecco, mi piacerebbe che questo capodanno per voi fosse memorabile perché vi è successo una cosa fondamentale che vi ricorderà sempre. Ah, te lo ricordi il capodanno del 2014? E magari potrebbe essere che per la prima volta avete ascoltato un programma radiofonico che vi è piaciuto, che non avete mai sentito prima e che da lì in avanti avete cominciato ad ascoltare. Buongiorno a tutti, questa è Voi Siete Qui, il programma in cui ogni giorno raccontiamo una storia diversa, la storia di una persona che ha voglia di condividere un pezzo della sua vita, un pezzetto, anche piccolo, un episodio semplice, che ha un inizio, uno sviluppo e una fine. Noi lo prendiamo, ci raccontiamo una storia addosso, sentiamo quella persona e ogni giorno raccontiamo un pezzo di vita diversa, di una persona diversa. Se avete voglia di farne parte, se avete voglia di condividere un pezzo della vostra vita, voi siete qui, @radio24.it. Noi siamo qui anche oggi, anche il primo di gennaio del 2014. Ah, buon anno, a proposito, visto che ne stiamo parlando. Oggi raccontiamo esattamente di quella cosa lì, raccontiamo di quel capodanno che vi è rimasto impresso in qualche modo perché è successo qualcosa di memorabile, perché ha stravolto una vostra abitudine e quindi ve lo ricordate. 349-238-6666 è il numero per mandare sms in diretta, o altrimenti c'è un profilo Facebook e c'è anche un profilo Twitter. Voi siete qui Radio 24 a Facebook, voi siete qui R24 a Twitter, il mio invece è semplicemente Matteo Caccia. Hanno già scritto Giorgio, il capodanno del 2004 mi rubarono l'auto la sera in cui dovevo raggiungere degli amici in montagna e alla fine lo passai a casa con i miei genitori e i loro amici e nonostante tutto fu molto divertente. 349-238-6666. Serena, i miei vendettero la casa in Liguria nel novembre del 98 e quello fu il primo capodanno che feci non al mare, non in spiaggia buttando le micette, ma chiusa in un appartamento di città. E ancora Angela, lo scorso capodanno è nato mio figlio ed è così cambiato che non mi sono nemmeno accorta che fosse capodanno. 349-238-6666. Se non avete fatto nulla di particolare in questo capodanno, allora statevi ad ascoltare questa storia. Provate ad immaginare di essere dove è stato Paolo durante questa storia. Siamo in un paese piccolo piccolo nel cuore del Centro America. La temperatura è un'altra da quella che avete fuori dalla vostra auto o dalla vostra casa o dal vostro studio. In questo momento, ovunque vi troviate, fa molto caldo, c'è l'oceano cristallino davanti a voi e mi auguro che questa storia vi faccia ricordare questo capodanno, il capodanno del 2014. Stavo vivendo uno dei momenti più tristi della mia vita. Mia moglie mi aveva lasciato e da buon padre me ne ero andato da casa mia, lasciandola a lei e ai miei figli. Vivevo senza i miei affetti, senza la mia casa e senza le mie cose. Un giorno di fine settembre ero fuori da scuola ad aspettare che uscisse mia figlia e ho incontrato due amici con cui avevo fatto l'asilo, le elementari e le medie. In pratica ci conoscevamo da 40 anni, considerando che ne avevamo 43, si può dire una vita. Bene o male abbiamo continuato in qualche modo per strada a incontrarci ogni tanto. Poi se non ci incontravamo direttamente incontravamo qualche altro amico, per cui le notizie, le informazioni ci sono sempre state fra di noi. Mi dissero che stavano valutando di andare a trovare un quarto amico di quello stesso periodo che era andato a vivere in Belize. Il Belize allora era pressoché un paese sconosciuto, non che adesso sia famosissimo. Fra l'altro, all'epoca era stato da poco distrutto da un tornado. Ha un'estensione pari a metà Lombardia e una popolazione pari a quella di Cologno Monzese. Decisi di aggregarmi a loro e da lì ad un mese partimmo. Viaggio aereo Milano-Parigi, Houston, Belize City. Da lì 3 ore in una jeep carica di bagagli per arrivare a Plasencia, dove abitava il nostro amico d'infanzia. Partimmo con 2 valigie piene di ogni ben di Dio e cominciammo con l'uscire della dogana dicendo che non avevamo nulla da dichiarare. Il Belize allora era un paese incredibile, sia per la gente, sia per la vegetazione, sia per la fauna che si potevano incontrare. Da noi i ragazzi giocano nei parchi con vicino i cani che passeggiano, da loro giocano con vicini i coccodrilli, non scherzo, ho le foto. Passavamo le giornate in oceano a fare snorkeling e a pescare. Se ci sarà occasione racconterò lo scherzo che mi fecero con uno squalo. Ancora oggi, quando ci si vede, si ride di quella storia. Uscivamo con una barca che era poco più di un guscio. Ogni tanto, in mezzo all'oceano, il motore non ripartiva più e 2 degli amici dovevano smontarlo e rimontarlo per tornare a casa. Siamo stati su un'isola con una sola palafitta e un solo guardiano. Non era più lunga di 50 metri. Un'altra isola in cui c'era solo una capanna con un cane e non aveva un diametro maggiore di 10 metri. Di entrambe ho le foto. Su una terza, davvero sperduta nell'oceano, c'era solo un bar. Un bar in mezzo all'oceano. Già dalla prima sera quando siamo arrivati mi ricordo che era buio e c'era una famiglia di opossum che ci ha attraversato la strada, cosa che direi che in Italia è abbastanza improbabile ai confini con una città o quello in cui vivo. Per cui sì, direi proprio questo contatto con la natura. È stata solo una settimana, ma di un'intensità emotiva che difficilmente penso si possa rivivere. Alla mattina ci svegliavamo alle 6 e andavamo a camminare sulla spiaggia in attesa che si svegliasse il nostro amico. Più di una volta abbiamo visto vicino alla riva delle stelle marine grosse come una mano. È stata una vacanza in cui 4 uomini si sono ritrovati ad essere ancora i bambini e poi i ragazzi di 40 anni prima. When I'm a sad sight, oh, oh. When I'm just bagpipes, oh, oh. I want to make it known you befriend me long after my twilight. Oh, widest ocean, soft inside, just enough to color it nice. Who's your willing sacrifice? Made us in one day. Ring ding, another one dies. Watching posers scandalize, trading off their panty lines one day. Tropical island. Oggi è il primo giorno dell'anno e la caratteristica del primo giorno dell'anno in questa zona del pianeta e da queste parti dell'emisfero è che fa freddo, molto freddo. Così tanto freddo che non puoi alzarti il primo di gennaio e farti un tuffo al mare. A meno che tu non sia uno di quelli che fanno quelle cose lì e prima o poi quindi ti intervistano sulla pagina locale del giornale della tua città, oppure ti fanno delle foto mentre ti tuffi da Ponte Milvio nel Tevere e poi finiscono su una gallery su Repubblica.it o Corriere.it. Insomma, sfido chiunque di voi in questo momento a dirmi che stamattina si è alzato ed è andato a farsi un bel bagno in mare. Ho voluto raccontare la storia di Paolo perché in questi giorni, in questo giorno, mi piace immaginare che qualcuno in quella zona di mondo stia festeggiando il primo dell'anno con un tuffo in oceano. Diversi anni fa ho avuto la grande fortuna di poterlo fare esattamente in quella zona di pianeta. Attorno ai 25 anni, per una di quelle strane traiettorie della vita che non prevedi e che si tracciano da sole, mi sono trovato a fare un viaggio per lavoro in Guatemala. Il Guatemala è un paese strano. Sembra sospeso tra l'America Latina e l'Oriente. È sempre fiorito. La temperatura è costantemente tra i 20 e i 25-27 gradi. Lo chiamano El País de la Eterna Primavera. È schiacciato tra il Messico, l'Honduras e il Belize, appunto. Quando guardi la cartina del Centro America quasi non lo vedi, però è pieno di montagne, di laghi e di paesi stracolmi di mercati e di spezie. Ci sono 37 vulcani in Guatemala e puoi passare dal Pacifico all'Atlantico in poche ore. Ho scattato centinaia di foto di quel periodo, foto di Antigua, la la vecchia città coloniale che sembra uscita da un disegno di Hugo Pratt, fatto di uno sciamano che celebra un rito propiziatorio all'amore tagliando la testa di un gallo. Foto di Cici Castenango, il mercato più assurdo che abbia mai visto. Foto di uomini, di donne, di bambini, tutti minuscoli e scuri, con le facce sorridenti, che arrivano da un'epoca che non è la nostra. Ho dormito una notte in una casa che sembrava uscita da Macondo, il paese magico di García Márquez. E il giorno dopo, invece, in un hotel super lusso con la piscina all'ultimo piano, sotto un soffitto di vetro. Uno di quei posti che non ti spieghi come possono esistere a pochi metri da una baraccopoli, in quella città assurda che è Guatemala City. Ricordo di essermi alzato il primo giorno dell'anno e di sentire la mancanza del concerto di Capodanno, con quella sua bella marcia di Radetzky. E poi invece essermene dimenticato un secondo dopo, facendo colazione con mango e banane. E ogni tanto penso che bisognerebbe ricalcolare il calendario. Bisognerebbe distribuire i giorni dell'anno in modo che ciclicamente, ogni 5 o 10 anni, le stagioni si invertano, così che le vacanze estive cadano in inverno e che l'estate arrivi a Natale. Non so se i climatologi o gli scienziati sarebbero d'accordo, ma secondo me modificare il ritmo delle stagioni potrebbe essere sano. Potrebbe modificare le abitudini e il modo di vedere le cose. Ci permetterebbe di ricordarci molto meglio di quel Ferragosto in cui caddero 50 centimetri di neve. Ma anche di quel Capodanno in cui andammo a fare il bagno in spiaggia a mezzanotte senza dover per forza andare in Guatemala o in Belize, che poi, se uno ci vuole andare, ci può andare comunque. Ovunque siate, buon inizio di 2014. Giorno, per chi non avesse mai ascoltato questo programma e lo facesse per la prima volta oggi, il primo dell'anno del 2014, facciamo una cosa che è abbastanza ardita, cioè raccontiamo una fotografia alla radio. La fotografia è dell'autore della storia, che è quindi anche il protagonista della storia, e capita il caso fortunato, e questo è uno di quelli, in cui la fotografia racconti esattamente la storia che è stata raccontata. Questa fotografia risale agli anni, all'anno, a quell'anno in cui Paolo con i suoi amici era in Belize e sembra uscita da Magnum PI. Sono loro quattro scottati dal sole con le camicie, uno ha una camicia che sembra hawaiana con degli uccelli bianchi su uno sfondo rosso. Hanno tutte le camicie aperte, sono in un, credo, in un Deora all'aperto, birre sul tavolo e espressione da King Kamehameha Club. Pronto Paolo? Sì, ciao Matteo. Come stai? Bene, grazie. Tu, buon anno. Buon anno anche a te, ti ringrazio. Cosa hai fatto ieri sera? Hai mangiato, hai bevuto, hai festeggiato? Vabbè, insomma, le robe che si fanno. Ho mangiato, bevuto e festeggiato, sono in montagna con degli amici. Magnifico, che non sono loro, non sono quelli del Belize però. No, questi sono altri amici. Senti, tu te lo ricordi il King Kamehameha Club, che era questo locale di uno degli amici di Magnum PI, dove ogni tanto lui, TC e gli altri si ritrovavano? Questa foto che ci hai mandato, che se siete davanti a un computer andate a vederla, se siete in giro, in macchina, quando arrivate a casa dategli un occhio, voi siete qui Radio 24, sembra uscita da una puntata di Magnum PI. Quanti anni fa sono esattamente? Era il cavallo fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del 2003. Ah vabbè, 10 anni ormai fa. Sono 11 anni. 11 anni direi, quindi no, sembra un pochettino più vecchia, ma forse perché è una foto, questa è una foto cartacea, vero? Era una foto cartacea. Che tu hai scattato una foto, ok, quindi forse è quella sorta di velo lì. Senti, io voglio sapere tutto del Belize. Ma guarda, dimmi da dove vuoi partire e cercherò di raccontarti tutto. Partiamo dallo scherzo dello squalo, visto che dicevi, se avrò modo di raccontartelo nel tuo raccontrici, se avrò modo te lo racconterò. Sì. Guarda, divertentissimo, nel senso che era il primo giorno, primo giorno pieno di vacanza, ed eravamo usciti in barca, era il guscio di Stefano, che è l'amico che ci ha ospitato lì in Belize. E andiamo al largo nell'oceano, si trova uno scoglietto dove attraccare la barca e scendiamo per fare snorkeling e immersioni. Considera che gli altri tre amici, per cui Stefano, Corrado e Gianluca, esperti subacquei, io invece più che qualche visita come snorkeling... Sì, insomma, maschera e boccaglio. Esattamente, esattamente, perché loro si rendono conto che dietro uno scoglio c'è uno squalo buono, diciamo, di quelli che non attaccava. Cioè, che ti ricordi che genere di squalo è lo squalo? Squalo gatto, pesce gatto, no? No, pesce gatto non era uno squalo. Adesso aspetta, finisco di raccontarti. Va bene, vai. Che mi fanno segno di guardare giù, io non vedo niente. Uno di loro si immerge e scuote questo pesce per la coda, questo schizza proprio nella mia direzione. Io ero lì che guardavo, mi sono visto arrivare questo squalo che poi sott'acqua sembrava anche più grande di quanto magari forse realmente non fosse, però diciamo comunque un pesce. Comunque uno squalo, insomma, quante volte capita di vedere uno squalo ed esserci immerso nella stessa acqua? Quella era la prima volta, fino adesso direi è stata l'unica. E loro tre che mi guardavano hanno visto la mia faccia atterrita attraverso la maschera con questo squalo che probabilmente era più spaventato di quanto non lo fossi io, che è schizzato verso di me e poi ovviamente è scappato. Se n'è andato, chiaramente. Sì. Ma scusa, il tuo amico Stefano, che cosa faceva in Belize? Perché viveva in Belize? Lui, noi ci eravamo ritrovati alla fine degli anni 90, noi come ti dicevo siamo tutti amici dai tempi d'infanzia, per cui ci siamo conosciuti da bambini. E lui aveva fatto questa scelta di vita con la sua compagna di andare in Belize, comprare dei terreni e su uno di questi due terreni che aveva acquistato aveva costruito la sua casa e si era trasferito lì, casa che adesso è da allora, gli serve per... come una diciamo delle cose che fa per vivere, per cui la dà in affitto residenza Colibrì lì a Belize, a Placentia. Quindi se uno cerca residenza Colibrì Belize lo trova? Sì, su TripAdvisor lo trovi, sì, è tra l'altro molto, molto carina, è una casa su tre piani ottagonale, tutta fatta in legno, tenuta molto, molto bene. Sei a 60 metri dall'oceano, 60 metri dall'oceano. E quindi la sua attività è questa qua, cioè lui semplicemente vive lì e fa tipo l'albergatore. Adesso fa questo, poi ci siamo in contatto, per cui ci scriviamo, adesso abbiamo incrementato le mail, e ha preso anche dei terreni, adesso sta facendo delle coltivazioni di cocco. E cosa dice del Belize? Come si trova a vivere in Belize? No, perché sai, il primo dell'anno è sempre il momento in cui uno dice ah, quest'anno, guarda, quest'anno mollo. Lui ormai è tanti anni che è lì, perché sono circa 15 anni che è lì. Ha fatto in tempo a vedere anche la distruzione che ci fu alla fine degli anni 90, arrivò un uragano che distrusse molto del Belize e la sua fu una delle poche case che rimase in piedi proprio per come l'aveva costruita e ci raccontò come era stata l'esperienza di questo oceano che la circondava mentre c'era questo uragano e poi defluiva, se ne andava lasciandola intatta, ma ogni volta era una paura che questo potesse non succedere. Guarda, tra l'altro sono appena andato su colibrihouseplasencia.com ed è veramente un posto notevole, magari dopo lo carichiamo sul profilo Facebook. Io tra un po' ti devo salutare. Paolo, tu che cosa farai in questo 2014? O meglio, cosa fai nella vita e cosa pensi di fare poi? Allora, nella vita io lavoro in una multinazionale americana, sono responsabile commerciale. E, ma tipo farmaceutica? Nel mondo dei pagamenti elettronici. Ah, cui, ok. Io quando penso multinazionale americana penso subito, sai, a quei ministeri del male, delle farmaceutiche che testano le loro... No, invece no. No, noi facciamo in modo che le transazioni che escono dai terminali di pagamento arrivino in modo sicuro, nel minor tempo possibile, agli host bancari per farci spendere i soldi. Ma mi eccita da morire questa cosa che fai, Paolo. E nel 2014, poi ti saluto, farai questo, continuerai a fare questo sostanzialmente? Penso di sì, mi auguro proprio di sì. Come va? C'è crisi nel settore del pagamento? Beh, allora, la crisi c'è sempre, devo dire. Noi siamo andati abbastanza bene nel 2013 e mi auguro di fare altrettanto nel 2014. E allora... magari ci può essere la crisi sull'importo della transazione, ma magari non sul numero delle transazioni. Certo, insomma. Si potrebbe fare molto di più in Italia sul pagamento elettronico, questo sì. Paolo, è così che io ti lascio, con un futuro per l'Italia e soprattutto con un occhio al Belize e a questo posto che ho davanti agli occhi sullo schermo in questo momento, colibrihouseplasencia.com. Grazie per la storia, buon 2014 e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, tanti auguri e un buon 2014. Ciao, ciao Paolo, grazie. Ciao. Io vi consiglio veramente, se avete un computer davanti, di andare a vedere il luogo in cui Paolo ha passato quella vacanza in Belize. E allora il sito è, ve lo dico preciso, Colibri House Placencia, come è scritto, placencia.com. È un sito fatto anche un po' con poco, devo dire, non è particolarmente sofisticato, però si vede precisamente questa casa, che è una casa in legno a pianta, direi 1, 2, 3, 4, 5, 6... ottagonale probabilmente, che ha due piani e l'interno è tutta in legno, insomma è anche arredata molto bene. La roba bella ovviamente è dove si trova questa casa, perché ha delle palme intorno e alle spalle, una stradicciola di sabbia e davanti a sé proprio una spiaggia e il mare cristallino di cui ci parlava Paolo del Belize. Così mi piace lasciarvi in questa prima parte di Voi Siete Qui, perché ce ne sarà una seconda a breve dopo la pubblicità, così con questa immagine praticamente caraibica, mentre voi siete in auto a casa o magari state partendo per il Belize. Se c'è qualcuno che sta partendo per il Belize ce lo racconta immediatamente. 349 238 6666. Voi Siete Qui Radio 24 è il profilo Facebook del programma, mentre Voi Siete Qui R24 è il profilo Twitter. Nella seconda parte di questa puntata, perché come è già successo a Natale e a Santo Stefano, oggi abbiamo regalata dalla radio mezz'ora in più per raccontare storie. Quindi nella seconda parte, dopo la pubblicità, vi racconto due storie che sono molto diverse da quella di Paolo, perché hanno a che fare, uno con un viaggio che, questo è il titolo della mail che mi manda Elena, quel viaggio che cambiò la mia vita, però è un viaggio per noi al contrario, perché tutte le storie che abbiamo raccontato fino ad oggi erano storie, e anche quelle che racconteremo nei prossimi giorni, sono storie di persone che da qui, dall'Italia, partono per. La sua storia invece parte da un altro punto, parte da una cittadina dei Paesi Baschi, Vitoria Gasteiz, credo che si pronunci, per venire Gasteiz, Vitoria Gasteiz, per venire qui, per venire in Italia e rimanerci. Quindi è un viaggio, ma è anche di fatto una scelta di vita. E poi chiuderemo questa puntata invece con una storia che ho trovato, che siccome è un libro che mi ha consigliato un caro amico, Alex Bellini, che è un amico di questo programma, mi ha fatto leggere un libro e in qualche modo volevo infilarla e volevo raccontarvela. Quindi più tardi, prima di chiudere, vi racconterò un'altra storia tratta da un libro di Sylvain Tesson, che è uno scrittore francese che ha passato 6 mesi nelle foreste siberiane. Voi siete qui. Noi abbiamo sempre raccontato storie, fin dall'inizio della nostra specie. Le storie sono il modo grazie al quale diamo un significato alla nostra vita. Queste parole sono parole di Chaim Potok, che quando gli chiesero in una delle varie interviste per quale motivo lui scriveva e per quale motivo l'uomo raccontava storie, lui dava questo significato, dava questa risposta, perché in questo modo noi diamo un significato alla nostra vita. Questa è sempre Voi Siete Qui, questa è sempre Radio 24. Io sono Matteo Caccia, il programma che state ascoltando magari per la prima volta in un orario anche bizzarro, perché di solito chiudiamo poco prima, chiudiamo alle 16:30, ma in queste festività, in particolar modo anche in questo primo di gennaio, continuiamo fino alle 17. Dicevo, questo è un programma in cui noi facciamo esattamente questa cosa qua: noi raccontiamo delle storie, non raccontiamo delle storie prese all'interno della radio, le prendiamo dall'esterno, le prendiamo dalle persone che hanno voglia di scrivere a Voi Siete Qui @radio24.it e hanno voglia di condividere un pezzo della loro vita. La scrittura è veramente solo un mezzo, non ci interessa lo stile, non ci interessa se una storia è scritta bene o è scritta male, anche se poi vai a capire se potremo mai giudicarla se una storia è scritta bene o scritta male. A noi ci interessa l'episodio, ci interessa capire quella storia che vi è accaduta anni fa, l'altro ieri, che vi è successa stamattina e che in qualche modo vi è rimasta e quindi in qualche modo racconta qualcosa di voi. Voi Siete Qui Radio 24 è il nostro profilo Facebook, Voi Siete Qui R24 è il nostro profilo Twitter, ma soprattutto Voi Siete Qui @radio24 è il nostro indirizzo mail a cui mandare la vostra storia. Una pagina due massimo, in cui abbiate voglia di condividere un racconto che in qualche modo, che in qualche modo vi racconti. Noi siamo qui tutti i giorni alle 16. Oggi continuiamo a raccontare storie, per queste puntate natalizie, di festività natalizie. Natale è già passato ormai da una settimana. Noi abbiamo chiesto storie di viaggio, e nella puntata di oggi, nella puntata del primo di gennaio, quelle che sto per raccontarvi sono storie di viaggio un po' particolare. La prima, quella che sto per raccontarvi adesso, la storia di Elena, per noi è come se fosse un viaggio a ritroso, cioè è la storia di una persona che parte da un luogo lontano e viene qui, viene da noi, quindi è un viaggio che arriva dalla Spagna, dai Paesi Baschi per l'esattezza, e che porta fino all'Italia. La seconda invece è una storia ancora più fuori dai canoni, ma ve la racconto dopo. È una storia tratta da un libro di un romanziere francese che per 6 mesi della sua vita decide di fare vita da eremita e si rinchiude in una capanna sul lago Baikal a meno 30, ma questa più tardi. Partiamo quindi dalla storia di Elena, che parte da esattamente Vitoria Gasteiz, o Gasteiz, io spero di pronunciarla bene. Tra l'altro ho scoperto essere il capoluogo dei Paesi Baschi, è una cittadina di poco più di 200.000 abitanti. I Paesi Baschi, lo sapete, sono questa comunità autonoma che si trova nel nord della Spagna. Forse la città più famosa di quella zona è Bilbao, probabilmente, però la capitale è Vitoria Gasteiz. Quindi siamo più o meno una ventina d'anni fa, Elena è una ragazza, si è appena laureata in ingegneria e parte proprio da lì. Ricordo l'allegria di sapere che mi era stata appena confermata la borsa di studio. Dopo l'estate sarei partita con in tasca un anno di esperienza all'estero, in un'azienda. Per me era un piccolo sogno diventato realtà. Per me, fresca di laurea in ingegneria, era un inizio che gli altri compagni di università non avevano. Partivo per l'Italia, quel paese che qualche mese prima rifiutai di visitare. Ero in vacanza, mi risultava poco accattivante. Preferivo i paesi nordici, forse per il loro ordine e pulizia, forse per il mio ordine mentale, alla fine sono un ingegnere, chi lo sa. Insomma, Italia mi sapeva di casino, disordine, moto che sfrecciano, trascuratezza. Arrivò il mese di settembre. La partenza era prevista per il giorno 28, e in quei giorni era venuta a trovarmi un'amica americana. Anche lei stava preparando un viaggio lontano da casa sua. Partiva per l'anno sabbatico che fanno gli anglosassoni, e prima di iniziare tornava a casa sua, a St. Louis, dove pensava di preparare tutto. La sua data di rientro era lo stesso giorno in cui sarei partita io, e quindi ricordo quel saluto a tutti gli amici che erano venuti in stazione a Vitoria Gasteiz, la mia città, a salutarci. Ricordo la salita frettolosa sul treno che ci avrebbe portato a Madrid, e l'arrivo era previsto nelle prime ore del mattino, oppure le ultime ore della notte, chissà dove si possono ubicare l'1:45. Lungo il tragitto parlammo degli ultimi giorni passati assieme, degli amici che lasciavamo a casa, della nostra avventura, della mia paura che un anno fosse troppo lungo quando le cose vanno male o troppo corto quando le cose vanno bene, del suo anno sabbatico in Sud America. Arrivate a Madrid, decidemmo di non andare in albergo e quindi prendemmo un taxi che ci portò dritta in aeroporto. Il mio volo partiva alle 7, il suo alle 7:45. L'eccitazione per la partenza era tale che sicuramente con un pisolino nella sala d'attesa dell'aeroporto ce la saremmo cavata. Ricordo le lunghe ore notturne, l'alba che non arrivava mai, la solitudine dell'aeroporto vuoto e il pisolino che non bastava. Poi finalmente arrivò l'ora dell'imbarco. Io per Milano, lei per New York. Ci salutammo e, secondo me, non sentimmo neanche la tristezza del separarci. Eravamo troppo prese da quello che ci aspettava, dal nostro futuro di un anno diverso, non appena avremmo attraversato la porta d'imbarco. Il volo fu tranquillo. L'aereo era quasi vuoto. All'epoca non si volava tanto come si fa adesso e le compagnie low cost erano solo un miraggio qui in Europa. Dopo l'atterraggio presi la mia unica valigia e il mio ombrello. Sì, questo era il mio bagaglio per un anno fuori casa, una valigia e un ombrello. Uscii dalla porta degli arrivi. L'autista che l'azienda dove avrei svolto lo stage aveva inviato a prendermi mi aspettava fuori dalla porta, con uno di quei cartelli in mano dove scrivono il cognome della persona che aspettano e che tante volte avevo visto prima, ma che mai avrei immaginato che uno di loro avrebbe riportato il mio nome. A quell'anno di stage sono seguiti altri 19 qui in Italia. E continua a sembrarmi incasinata, disordinata, piena di moto che sfrecciano nel traffico e trascurata nelle sue bellezze. Ma tutto questo mi ha rubato il cuore. Ecco, e finisce così la storia di Elena, dicendo: sono 19 anni che sono in Italia, che continua a sembrarmi incasinata, disordinata, piena di moto che sfrecciano nel traffico e trascurata nelle sue bellezze, ma tutto questo mi ha rubato il cuore. Questo è un po' l'effetto che fa questo paese, che ad alcune persone ovviamente, che può dare ovviamente risultati diversi. Uno se ne innamora e ci si blocca, anche se sfrecciano i motorini e ogni tanto è un po' disordinata. Poi non è ovviamente così vero e non è così dappertutto, però è una fotografia che Elena ci regala e decide di rimanerci. Altri invece decidono semplicemente di non tornarci più. Era un viaggio al contrario, come vi dicevo, nel senso che appunto lei parte dai Paesi Baschi e arriva qui, e in qualche modo il suo viaggio ci racconta come viene visto il nostro paese da persone che arrivano, per le quali arrivare qui è un viaggio. Voi siete qui, @radio24.it. Se non siete più in tempo per mandare storie di viaggio, siete sempre in tempo per mandare invece storie che riguardano qualcosa della vostra vita, che vi riguarda da vicino, che in qualche modo racconta qualcosa di voi. Abbiamo raccolto più di 7000 racconti in questi 2 anni e mezzo di programma. Abbiamo editato 2 ebook che trovate sul nostro sito, alla pagina di Voi Siete Qui, dove trovate tutte le puntate, trovate i podcast, trovate gli streaming delle puntate e appunto gli ebook gratuitamente scaricabili sul vostro supporto elettronico. Adesso sentiamo la viabilità e poi andiamo a fare un viaggio che è ancora diverso da questo e ancora diverso da quelli che abbiamo raccontato. È un viaggio che qualcuno definirebbe un viaggio interiore. In realtà è un viaggio, è un tizio che parte da Parigi e va in Siberia, esattamente sul lago Baikal, e ci rimane lì per 6 mesi. L'idea è quella di fare vita da eremita e cercare di capire, come dice lui, qual è la sua vita interiore. Preparatevi perché farà un gran freddo sul lago Baikal, ci saranno meno 30 gradi. Ascoltate un po' come sono messe le strade e poi voi siete qui. Strade in diretta. Si è appena verificato un incidente sull'autosole, sul tratto appenninico, tra gli svincoli di Roncobilaccio e Barberino, sulla carreggiata che da Bologna porta a Firenze. Primi rientri in città al termine di un capodanno fuori porta. Sulla 10 la Genova a Ventimiglia si resta in coda all'innesto con la 26 dei Trafori in direzione Gravellona Toce, si rallenta sulla 22 del Brennero, sulla carreggiata verso Modena, tra Rovereto Nord e Affi. Noi torniamo tra un'ora. Voi siete qui. Un noto scrittore e viaggiatore ha deciso di lasciare Parigi. Saluta gli amici, la fidanzata, il lavoro e gli impegni. Per 6 mesi andrà a vivere in totale isolamento nelle foreste della Siberia, in una capanna di pochi metri sulle sponde del lago Baikal, il lago più antico del mondo, a 120 km di distanza dal primo villaggio abitato, senza vicini di casa né strade di accesso. Buongiorno a tutti, questo è sempre Voi Siete Qui, è sempre Radio 24. Oggi chiudiamo questa puntata speciale del primo di gennaio con una storia che non è una storia che ci è arrivata. Tra le tante che c'erano arrivate e che manderemo in onda e che racconteremo ovviamente più avanti, mancava una storia di isolamento e quindi ho deciso di andare a prenderla da un libro che ha pubblicato la Sellerio, che si chiama Nelle foreste siberiane. L'autore si chiama Sylvain Tesson, è uno scrittore francese. Questo libro me l'ha regalato un amico mio e della trasmissione, che è Alex Bellini. Alex Bellini ve lo ricorderete perché è stato dal vivo al live di Voi Siete Qui, perché ha raccontato la sua storia in diretta nella scorsa stagione e perché è l'uomo che ha attraversato a remi l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico, quindi di forme di eremitaggio ne sa qualcosa. E quando è stato ospite una sera a casa mia, perché non è sempre in giro nell'Oceano Pacifico, come regalo per l'ospitalità mi ha portato questo libro e mi ha detto: questo è un viaggio che trovo interessante, è un viaggio che questo tizio fa rimanendo fermo. E questo tizio effettivamente rimane per 6 mesi, da febbraio a luglio si impone un ritmo preciso, scrive la quarta di copertina. La mattina legge, scrive, fuma e disegna. Seguono 5 lunghe ore dedicate alle faccende domestiche. Bisogna tagliare la legna, spalare la neve, preparare le lenze, riparare i danni dell'inverno. La vera sfida di questi 6 mesi è scoprire se riuscirà a resistere. Insomma, immaginate di essere nel posto, uno dei posti più freddi della Terra, sul lago Baikal, in Siberia, e dover rimanere 6 mesi lì, da soli. Quello che sto per leggervi è il racconto dell'inizio. Lui arriva con un furgone, con un amico e un'altra persona su cui ha tutte le riserve di cibo per i 6 mesi, prepara tutto e a un certo punto il furgone se ne va e lui rimane da solo. 12 febbraio. Il fumo della capanna sale nel bosco dei cedri. La neve ha coperto il tetto con una glassa bianca. Le travi hanno il colore del pan pepato. Ho fame. L'abitazione sorge alla base di un versante alto 2000 metri. La taiga si inerpica verso la cima e a 1000 metri si dà per vinta. Oltre quel punto si estende il regno della pietra, del ghiaccio e del gelo. Il pendio comincia dietro la capanna. Il lago, invece, si trova a 450 metri di altitudine. Dalle mie finestre si vede la riva. Sergei, il capo delle guardie, è venuto con noi da Pokojoniki. Nello scendere dal camion abbiamo contemplato in silenzio tutta quella bellezza. Poi lui si è toccato una tempia e mi ha detto: questo è un posto magnifico per suicidarsi. Nel furgone c'è anche il mio amico Arnaud, che mi accompagna da Irkutsk. Vive là da 15 anni. Ha sposato la donna più bella della città. Lei sognava Cannes e l'Avenue Montaigne. Quando ha capito che Arnaud voleva solo percorrere la taiga in lungo e in largo, lo ha piantato. Nei prossimi giorni, tutti insieme, predisporremo il necessario per la mia partenza e la mia permanenza. Poi gli amici torneranno indietro e mi lasceranno solo. Per ora c'è da scaricare il materiale. 14 febbraio. Sei giorni dopo la partenza da Irkutsk, il furgone dei miei amici scompare all'orizzonte. Per un naufrago gettato su una spiaggia dalle onde, lo spettacolo più straziante è quello di una vela che si allontana. Volodya e Ludmilla partono per Irkutsk. Vanno incontro alla loro nuova vita. Aspetto che si voltino per lanciare un'ultima occhiata alla capanna. Non si voltano. Ormai il furgone non è che un punto. Sono solo. Le montagne sembrano più severe. Il paesaggio si svela, intenso, e si impone alla mia vista. È incredibile quanto l'uomo riesca a monopolizzare l'attenzione dell'uomo. La presenza dei nostri simili sottrae interesse al resto del mondo. La solitudine è la conquista che fa ritrovare il piacere delle cose. Il termometro è a meno 33 gradi. Il camion è sparito nella foschia. Il silenzio scende dal cielo in forma di piccoli fiocchi bianchi. Essere soli significa sentire il silenzio. Una raffica di vento. Il nevischio mi appanna la vista. Lancio un urlo. Spalanco le braccia, offro il viso al vuoto gelido, poi torno al caldo. Ho raggiunto lo scopo della mia vita. Finalmente saprò se ho una vita interiore. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Questa era la storia di Sylvain Tesson nelle foreste siberiane. Se vi interessa saperne di più e sapere come sono andati quei sei mesi in Siberia sulle coste del lago Baikal, l'edizione è Sellerio, la trovate in libreria. Io voglio chiudere questa puntata del primo di gennaio ringraziando tutti quelli che rendono possibile tutti i giorni questo programma, che sono Tiziano Bonini, che è autore di questa trasmissione insieme a me, Mauro Pescio, che scrive le puntate insieme a me. Ringrazio Margherita Ina, che come sapete è parte fondamentale di questa redazione, senza di lei non saremmo praticamente nulla. Ringrazio Paolino Corleoni, che rappresenta un po' tutti i tecnici che siedono di là dal vetro e stanno al nuovo mixer della radio. Qua è un mixer straordinario, super tecnologico. Io vi auguro un buon inizio di 2014, ma soprattutto vi chiedo, se avete voglia di farlo, di raccontare storie. Raccontatele in genere. Raccontare storie è un atto politico, fa bene all'anima e fa vedere altri modi di vivere nel mondo. Raccontate storie e inviatecele. Voi siete qui, @radio24.it, altrimenti ascoltatele sui nostri podcast. Grazie a quelli che hanno scritto le storie di oggi, grazie a Sylvain, che non lo sa nemmeno di essere andato in onda, grazie a Paolo ed Elena, perché anche loro sono un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Marco, sono nato a Modena e la storia di domani è la mia e parla di un viaggio in bicicletta incredibile di libertà in America Latina. Questa è la mia storia e io sono qui.